E siamo tornati in onda con Sono solo un nuvoletto, sempre da Radio Archimede. Io sono sempre Fulvio Gatti, Fulvio De Cat. Se dico ancora una volta, sempre esploderà qualcosa da qualche altra parte del mondo. Teoria del caos. Una farfalla batte le uova a Pechino e a qualcuno viene mal di pancia. Niente, era Jurassic Park questa settimana, quindi... Lo so, traumatizzo sempre i miei ospiti con queste partenze. E ho fatto anche di peggio, sappiatelo. È un piacere avere qui oggi in trasmissione Daniela e Antonio di Guru Guru Fumetteria. Ciao. Ciao a tutti. Voi vivete in mezzo ai fumetti e non staccate mai. Quindi siete interlocutori privilegiati per questo programma. Dopo autori e basta, gli autori stufano. Adesso parliamo di fumetti con qualcuno che è più la parte che subite i fumetti o la parte che vivete i fumetti. O respirate? Diciamo tutte e due. Tutte e due, ok. Cioè, come ogni cosa, c'è uno yin e uno yang. Giusto? Esatto. Yang, non yin e yang, come a volte dicono terribilmente nelle certi stupri del linguaggio di internet. Questo, lo so. Brutte cose che succedono, come il qual è con l'apostrofo. Esatto. Chi ci vede in webcam su www.radioarchimede.it può anche vederci in tutto il nostro splendore, può anche vedere che oggi io non ho la giacca, è la prima volta da quando ho fatto la trasmissione che per questione di calore rinnego la mia natura di mod del fumetto e quindi sono in t-shirt, simpaticamente in t-shirt, sono sceso sulla terra dei normali, non giacca muniti, per calore. Quindi stavo al di là di questo stupido siparietto autoreferenziale. Il discorso interessante su voi, e adesso faccio una domanda direttamente a Antonio, che è stato molto taciturno. In questi 30 secondi in cui ho parlato solo io è stato taciturno, ma d'altra parte ho parlato solo io, quindi. Anche per te è un viverlo, è un subirlo il fumetto, avresti pensato, occupandoti di una fumetteria, che sarebbe diventato così tanto parte della tua vita? Speravi che lo fosse in maniera diversa? In questi ultimi anni sono cambiate tante cose, quindi ci siamo trovati proprio a dover lavorare praticamente 7 giorni su 7 per essere sul pezzo. Però è una cosa che ci piace, quindi non pesa poi tanto, a parte la stanchezza. È normale che sia così. Quello però è normale. Ci divertiamo, ci piace. Ok, come nasce l'avventura di Guru Guru Fumetteria? Va bene, allora ve lo racconto. È nata davanti a una birra. Un pochino più vicino al microfono. Così va bene? Sì. È nata davanti a una birra fra me e la mia ex socia. Ok. Era capitata l'occasione, volevamo fare qualcosa di nostro. Io adoravo i fumetti, a lei interessavano. Cioè, prima di bere la birra o dopo? Nel senso, quanti gradi alcolici avevi in corpo? Ah no, non erano tantissimi, dai. Ah beh, poi era una birra leggera. Si beve sì, sempre. Sì, 2 o 3. Hai rimpianto quella birra? No, mai. Ok, fantastico. Antonio, hai rimpianto quella birra? No, c'ero anch'io, quindi una birra fa sempre bene. Ok, io vi ho conosciuti quando Guru Guru era in via Arsenale. Esatto. E adesso invece vi siete trasferiti da quanto sarà? Qualche mese? Circa sono un anno? 7 mesi. 7 mesi. Del 2000. Ok, siete in via Palazzo di Città, giusto? 26/B, sì. Ok. Il cambio di casa è stato problematico o... Come tutti i traslochi ci sono i pro e i contro. Ok. Diciamo che abbiamo la miglioria di avere un negozio enorme, bellissimo, luminosissimo, esatto. Mentre prima era piccolino, molto stretto e stiamo veramente venendo sommersi dai fumetti. Ok, infatti questo si vede, nota anche dalle vetrine, avete 3 vetrine tra l'altro. 5. Ci stavamo sviluppando praticamente in altezza nell'altro negozio perché avevamo 17 metri quadri di spazio espositivo, adesso ne abbiamo un centinaio, quindi... Diciamo che lo spazio non basta mai. Quindi. Infatti il punto era esattamente quello, come quando qualcuno compra una libreria in più, in realtà non è che dice mi posso allargare, no, dura l'estasi di possibilità di allargarsi dura mezz'ora. Il tempo di montarla di solito. Esatto. E qual è la scelta, immagino, al di là dello spazio che vi ha fatto decidere di cambiare sede? Ma avevamo un sacco di progetti, in particolar modo volevamo dare più opportunità agli eventi che facevamo in negozio. In Guru Guru abbiamo notato che quando abbiamo fatto l'evento di SEO abbiamo veramente rischiato il collasso. Abbiamo avuto quasi 270 persone paganti e non c'entravano, assolutamente. Quindi era tutto un problema di organizzazione, fare i turni, rispettare i turni. Nello spazio nuovo invece si può organizzare molto tranquillamente un evento molto più grande. E quindi sì, io vi ho detto, potete trovare un negozio più grande, più grosso. Ah, poi in realtà quel giorno lì abbiamo bloccato praticamente anche via dell'Arsenale, sono arrivati persino gli ausiliari della GTT a controllare un po' la situazione perché c'erano ragazzini ovunque. Sì, alcuni seduti sui binari. E noi facciamo entrare 10 persone alla volta, quindi... la coda è durata dal mattino alle 9 fino alla sera alle 8, una cosa del genere. Direi che è questo che si definisce un successo, mi pare, sì. No? È stato un grande successo, sì. Ok, e quindi voi siete sempre... io stesso vi ho scoperti per la capacità di creare eventi, catalizzare l'interesse, soprattutto anche alla fascia di lettori giovane, giovanissimo. E pensate che comunque sia una chiave questa di ospitare, questo è per Antonio, pensate che sia una chiave ospitare gli eventi dentro la fumetteria? Assolutamente sì, perché in ogni caso dare la possibilità ai lettori di incontrare proprio Beniamino, disegnatore, sceneggiatore, comunque la persona di cui si è fan, è una cosa molto importante. Noi vediamo che da quando abbiamo iniziato a organizzare questo tipo di eventi a cadenza regolare, gli appassionati proprio ci cercano, chiedono magari preferenze riguardo a determinati autori, quindi una cosa importante. Quindi cominciate ad avere anche eventi a richiesta? Ah, diciamo che ogni tanto ci fanno dei leggeri suggerimenti, okay. Mettiamola così. E voi li ascoltate oppure no? Dite tutti sì poi vi vedete. No, di solito sì. Ah, ok, fantastico. Di solito sì, perché comunque diamo pari opportunità a tutti. Non è che sia io e sì io e che ne so, un povero ragazzo che ha appena iniziato a fare una fanzine non ha la stessa importanza. Fantastico. Infatti noi organizziamo molti eventi anche con autori indie, autoproduzioni. Abbiamo organizzato eventi con le ragazze di Hades che adesso sono state scritturate da Denti Blu, oppure scorsa settimana abbiamo organizzato l'evento con degli autori di una fanzine, di un magazine manga, si chiama Spoiler. Abbiamo organizzato un evento, visto che comunque una delle disegnatrici e creatrici del progetto è anche modella, abbiamo deciso di unire il fumetto alla moda, è venuta una cosa particolare. Si notava anche l'evento su Facebook, perché quantomeno è sempre molto lodevole cercare di portare il fumetto fuori dal ghetto. Però avete portato più autori di fumetti, più appassionati di fumetti, o siete riusciti a catturare qualcuno al di fuori del target nerd tipico? Tendenzialmente non c'è un proprio vero target. Di solito questo è molto interessante. Quando si fanno gli eventi, sì, vengono sì le persone interessate all'evento, ma vengono anche molte persone che si interessano a cosa sta succedendo. Magari non sono proprio sul pezzo, come dice di solito Tony, ma magari lo scoprono in quel momento lì, per cui si riesce ad avere più gente che esce fuori proprio dal target. Se tu hai targetizzato, che ne so, per i classici nerd, vengono i nerd, ma magari viene anche, che so, la fidanzata a cui non interessa assolutamente il fumetto, oppure che ne so, gli amici per, e si allarga sempre di più. Una cosa che mi ha visto nella nuova sede è il fatto di mettere anche gli autori in vetrina, mentre magari fanno il firmacopio, le dediche stanno comunque dietro la vetrina, e la gente da fuori, essendo comunque una zona di passaggio, vede la cosa, si interessa, entra, chiede informazioni, magari poi compra il fumetto, si appassiona. Una cosa che forse manca nel... Ma quindi fanno anche voi la mitica domanda, sfogliando qualcosa che non è Tex, gente che vi chiede, ma questo è un fumetto? Sì. Questa è la terrificante domanda che è capitata anche a me, ogni tanto capita. Questo è un po' uno dei problemi, ma vale anche per i comic book negli Stati Uniti, l'aver associato totalmente un certo formato e un certo tipo di contenuto al fumetto stesso. Infatti per vendere il fumetto in libreria hanno dovuto tirare fuori l'etichetta figa di graphic novel. Noi sappiamo che graphic novel e fumetto sono la stessa cosa. Sì, sì, esatto. Identica. Abbiamo ogni tanto delle notizie positive, ad esempio ho letto ieri di Zero Calcare, secondo il Primo Strega, una cosa impensabile fino a qualche tempo fa, un esatto. Premio italiano, un autore di fumetti. Voi riuscite a comunicare molto bene anche tramite i social network, e quindi a intercettare il vostro pubblico tramite i social network, giusto? Diciamo di sì, siamo conosciuti principalmente per quello. È una questione di lavoro costante, di presenza, di fornitura di contenuti, sì. Di pazienza anche nel rispondere? Assolutamente sì. Sì, sì. Soprattutto non aspettare troppo, essere sempre immediati nella risposta, perché comunque i social network richiedono proprio un impegno costante, proprio il termine social vuol dire proprio interagire con le persone, creare comunque delle discussioni. Non nego che determinate volte ci siano state anche discussioni un po' pesanti, delle flame, ma questo è normale, quando uno si mette poi a lavorare sul web trova di tutto. Certo. È solo che la maggior parte delle flame poi vanno a finire bene, perché ovviamente ci sono quelli che svalvolano per determinate cose. Già. Però diciamo che l'esperienza sui social nostra è positiva, anche perché statistiche sotto mano, comunque siamo una siamo forse la pagina di una fumetteria con maggiori interazioni in tutta Italia. Cioè, uno dei nostri vanti è questo. Antonio, tu hai studiato questo tipo di social network management? E io vengo dal settore della comunicazione pubblicitaria, ho studiato grafica pubblicitaria, ho fatto anche un po' di comunicazione all'università, non l'ho finita perché per iniziare a lavorare ho smesso, però sono comunque sempre in aggiornamento, studio ogni sorta di tecnologia web, cerco di provarla sin dall'inizio. Non è una scienza esatta la comunicazione su social network, ma probabilmente stare aggiornati più possibile. Bisogna inventare e non seguire strade già battute, perché se tu segui i consigli di qualcun altro rischi poi di accodarti e avere risultati comunque normali. Se cerchi di fare qualcosa di innovativo, magari è un po' più difficile perché stai a scervellarti ore e ore e ore per trovare qualcosa, però alla fine della fiera i risultati arrivano. Ma Daniela, riesci ancora a parlargli o Antonio è sempre lì sullo smartphone? Che... No, riusciamo tranquillamente a parlarci. Vi mandate un messaggio via smartphone? Succede anche questo. Sì. Vabbè, questo può... Se avete la tariffa flat tutte e due va bene, se no state arricchendo una multinazionale, sappiatelo. Poi noi abbiamo la caratteristica di lavorare e vivere assieme, quindi okay. Cioè, siamo costantemente a lavoro e costantemente... Bene, bene. Non ci siamo ancora ammazzati. Sì. No, per carità. Per carità, dai. Bene, c'è sto simpatico trucco del far fare la playlist agli ospiti che mi è stato suggerito da Cinzia Di Felice, che però non sono ancora riuscito a portare qui in trasmissione. Stefano Frassetto ne ha approfittato, mi ha fatto una playlist anni 80 per cui stavo scappando, però io non ho visto la lista che avete fatto e avete consegnato a Filippo in regia, quindi il primo pezzo per me sarà un'assoluta sorpresa. Daniela, la presenti tu? Antonio, la presenti tu? Ambarabà Cicicocò? Tre civette sul comò? Dovrebbe essere The Breaks di Curtis Blow. Ok. Oh my young people out there! Rieccoci in onda dopo la canzone che non ho capito che cos'era, era orecchiabile. Boh, bella scelta, sì, complimenti, vabbè, qualsiasi cosa. E torniamo in onda con Daniela e Antonio di Guru Guru. E chiacchieravamo talmente amabilmente che ci eravamo dimenticati quasi di essere in radio. Fuori onda e l'altra battuta buffa che ho fatto prima fuori onda, che riprendo perché devo espormi alla contumelia su me stesso, che mi sono chiesto se vi definiate Antonio e Daniela Guru Guru, tutti e due come i Ramones. Vi chiamano i guri guri ci chiamano esattamente, o guru guri o guri guri. Oh, vedi. Santo cielo, io speravo che fosse una boiata, invece purtroppo è davvero così. Ah, ok. Troppo è la verità. Vabbè. Ok, in questi tempi. Ma purtroppo io vengo da una cultura pop americana, eccetera. Non ho la minima idea di cosa voglia dire guru guru, me lo spiegate? Vuol dire giro tondo in giapponese. Ah, che bello, molto bello. Fantastico, e com'è nata l'idea? Perché avevamo, come sempre ti dicevo, davanti alla fantastica birra che aveva aperto le porte di questo fantastico mondo nuovo che era l'imprenditoria. Avete cominciato a girare in tondo? No, perché ci serviva qualcosa che potesse essere poi strutturato per dare un'identità all'azienda, quindi Guru Guru, 360 gradi, un giro tondo di fumetti e poi da lì è nato tutto il resto. Ma che meraviglia! E già pensavate di azienda davanti alla birra? Sì. Fantastico. Se il comparto ha bisogno di gente come voi per diventare, per essere credibili. E l'alcol. E l'alcol l'alcol rende business, rende gente di business. Può darsi. La birra all'Oktoberfest, chissà quante aziende sono nate. Boh, non so quanto siano durate, però pazienza. Antonio, dall'inizio dell'avventura ci sono stati ostacoli che non ti saresti aspettato lungo la strada e di cui si può parlare, magari senza andare a cercare problemi. Ostacoli tantissimi, penso sia normale per ogni persona che voglia mettersi in gioco, voglia aprire qualcosa di proprio. Ma qualcosa di specifico che ti ricordi, che non ti saresti mai aspettato di trovare lungo la tua strada, tipo la mucca davanti al treno in quella pubblicità che non ricordo? Qualcosa, ci devo pensare un attimo perché... Daniela ha già la risposta. Forse lei sì, diciamo che ci sono state delle difficoltà che non erano state preventivate, degli abbandoni lungo il percorso. Vabbè, questo è inevitabile, penso. Mancanza di liquidi, poi cos'altro. Ok, ma io volevo parlare di fumetti, faccio delle domande così e poi andiamo subito sulla grande, la mancanza di liquidi, che di questi tempi la liquidità... Non c'è, non esiste. Non esiste proprio, cioè l'unica liquidità che esiste è quella della birra. Giustamente. Meno male. E parliamo di cose più divertenti invece. Autori che avete contattato, che avete raggiunto e non vi aspettavate che fossero così alla mano, oppure che vi hanno traumatizzato completamente perché... Fammi pensare. Oddio, sono tutti un po' fuori di testa, perché comunque sono dei creativi, per cui sono tutti particolari. E questo è il loro bello, come si dice? Alessandra Patanè. È una cavalletta. Cioè, è una delle ragazze probabilmente con più forza di vivere e forza d'animo che abbia mai conosciuto. È fantastica. Ok, ok. Beh, penso che ci sia tutta una nuova generazione di autori. Comunque il Giro Shock, Dom, Denti Blu, tutti questi autori web hanno abbattuto tutta una serie di barriere che gli erano state messe di fronte dal mercato, hanno cominciato a pubblicarsi. Come e si dice, aiutati che il ciel ti aiuta. Allora, sì. Inizi a far promozione su te stesso, adesso che comunque la rete te ne dà la possibilità, poi se sei un minimo capace o comunque un minimo intraprendente, qualche risultato lo ottieni, si parte da un piccolo pubblico. Io ho iniziato facendo musica agli albori di internet, quindi bene o male ti fai il tuo piccolo pubblico, la gente viene a vederti, vedi sempre più gente ai concerti e ti diverti. Quindi sei convinto anche tu che... Dicono che l'industria della musica sia stata uccisa dagli MP3 e da internet, ma però è semplicemente cambiata radicalmente. Sì, è cambiata, anzi adesso sta tornando la cultura del pagare per la musica. Ovviamente non è come prima il pagare il singolo disco, però ovviamente vanno, come nella ristorazione vanno questi servizi all you can eat, sta nascendo questi servizi all you can listen, tipo Spotify, Deezer, okay. Adesso c'è Apple Beats, Apple Music, lanciato proprio l'altro giorno. Credo che siano legati alla modalità di fruizione del singolo, sì, linguaggio, che lo stesso Zero Calcare secondo me è arrivato alla nostra generazione che non leggeva più fumetti. Non è il nostro caso, però molti della nostra generazione non leggevano più fumetti. La pensi così? La penso così, Daniela? Sì. Tutta una serie di riferimenti a me ha colpito, non conosco molto bene, non ho letto così approfonditamente Zero Calcare, però mi aveva colpito le strisce che buttava dentro Darth Vader, così come Cthulhu, il grande Cthulhu di Lovecraft, però tradotto a pupazzone, tutta una serie di riferimenti che è stato il primo a buttarli dentro, mentre l'industria mainstream del fumetto rimaneva un pochino indietro, lui li buttava dentro e... Gioca molto sul nostalgico, però esatto. lo rielabora in chiave molto divertente. E però è una nostalgia strana, perché è una nostalgia nostra di 15 anni fa al massimo. 20. Vabbè, adesso non invecchiamoci 80, troppo, dai. Non invecchiamoci troppo, dai. E comunque è una proto-nostalgia, un qualcosa di... che ingigantisce anche un po' forse la bellezza di quello che era, immagino. Diciamo che con gli occhi della nostalgia tutto sembra più bello. Esatto. Riguardi certe cose o leggi certe cose del passato... Anch'io da ragazzino leggevo manga, molti dei manga letti erano schifezze. Cioè non... Riletti da adulto. Sì, sì, sì. Le gemme. Qualcosa, magari di cartoni animati, che sono quelli che prima ci ha insegnato l'infanzia, qualche cartone animato con cui hai fatto pace da grande? Ti faccio l'esempio mio, ho fatto pace con le Tartarughe Ninja, perché ne ho scoperto la storia, che era un tutt'altro. Poi vedi adesso il cartone animato delle Tartarughe Ninja, quello nostro, ok. Io sono ancora traumatizzata da Galaxy Express. Ah beh, giustamente. Però per esempio un cartone animato della nostra infanzia che si sono dimenticati, tra l'altro penso che siano liberi diritti, questo devo, però non devo dirle queste cose perché sono cose su cui faccio poi le cooperazioni per conto mio, quindi non vi dirò di cosa sto parlando, no, a questo punto ho buttato la pietra. Parlo del Conte Dracula, che è un cartone animato inglese, tra l'altro per qualche motivo che era finito sui nostri palinsesti. Sì, su Bim Bum Bam. Esatto, con tanto di sigla di Cristina D'Avena, ma è tutt'altro che un cartone animato mainstream, quello ha un humor nero. Ogni tanto c'erano queste perle, trovavi... Beh sì, dai, ogni tanto Bim Bum Bam tirava fuori questi piccoli capolavori che, rivedendoli da adulto, dici, ma non è roba da bambini. Che vale anche per molto manga, non tutto... Sì. Molto anime, quasi, per carità. Ma anche quasi manga, nessun manga tendenzialmente per bambini, almeno di quelli che sono arrivati da noi in Italia. Questo spiega, perché forse questo spiega molto della nostra salute mentale generazionale, però... Invece questo discorso di Sio che avete avuto come ospite, e ho fatto anche arrabbiare alcuni autori qui citando Sio, perché a me interessa collocare, contestualizzare. Io in Sio ho trovato un po' di quel linguaggio di Elio Storietese, un po' di Leo Ortolani per le pause, la scansione, quel linguaggio di Leo Ortolani che c'è anche in Bigio, per dire. Sì. E, Voi il primo impatto, ma vi piaceva colpo d'occhio quello che faceva Sio? Vi divertiva e poi è diventato anche... Io ne ero divertito, cioè, personalmente mi godevo le strisce, mi godevo i video prodotti, okay. Cioè, comunque diverte anche a me, non è che sto dicendo, vi sto chiedendo sì, se siete dei cretini che vi piace Sio. Contenuti demenziali mi sono sempre piaciuti. Io trovo geniale quello che fa, non mi piacciono i contenuti demenziali, ma perché io e lui abbiamo dei gusti completamente differenti. Ah, ok, quindi lo contestualizzi anche tu contestualizzi? Sì, certo. Ok, per lavoro si fa questo e altro. E invece parliamo a questo punto, entrando nella fanboyaggine estrema, parliamo di Doctor Who. Penso che la prima cosa di cui ho parlato quando sono entrato in negozio da voi è stato: bello il sagomato di Eleven, ma dov'è Ten? Voi vi state costruendo anche una nicchia di lettori affissionados di Doctor Who, avete anche i fumetti import. In lingua, sì. Assolutamente. E vanno molto bene, sono molto richiesti e riceviamo anche un sacco di richieste online per questo tipo di cose. Lo stesso distributore ci fa: ma come fate a ordinare tutte queste cose in lingua originale? Come fa? Eppure la gente, abbiamo finito quasi i cartonati delle collection, ne avevamo ordinati un bel po'. Tanti. E poi bella cosa anche che abbiamo un'autrice italiana, una disegnatrice italiana che ci lavora sopra, quindi Elena Casagrande lavora sul fumetto di Ten. Tra l'altro, se ho visto bene, Simone Di Meo, che è qui di Torino, adesso farà le chine. È stata una bella sorpresa anche per noi. Esatto, quindi grande Simo. Pian piano. Ma c'è un movimento di autori italiani che arrivano negli Stati Uniti. In questo caso in Inghilterra, perché è Titan Comics che pubblica il fumetto, sì, di Doctor Who. È interessante che stia cambiando anche. All'inizio gli autori italiani sono arrivati solo in Marvel, adesso pian piano stanno arrivando anche altrove. Anche i Major ne ha molti adesso. Dynamite, stessa cosa. Aspen Comics, cioè, sono piene di etichette che annoverano nel loro roster tanti autori. È la dimostrazione che comunque la qualità c'è, a volte se non c'è il mercato. Forse la dimostrazione che avevamo dei talenti coi controfiocchi è venuta da una parte dagli autori web che hanno saputo fare breccia anche prima che ci fosse un editore interessato, e dall'altra anche i disegnatori italiani arrivati negli Stati Uniti. C'è una tua disegnatrice o disegnatore preferito tra quelli che hanno superato il confine? Mirka Andolfo. Ok. Beh, Mirka è esponente contemporaneamente di entrambe le schiere, perché Sacro Profano ha un seguito pazzesco su internet e contemporaneamente lei fa anche Damsel in XX. Ok, che esce per Dynamite? No, no, è Aspen. No, ma okay. Attualmente anche al lavoro su varie serie della Dynamite, la saga di Chaos, oppure ho fatto degli episodi per Vampirella, okay. Tutte serie interessanti. Adesso lavorerà Red Sonja, che è un'altra serie, okay, bella pesante. Quindi qualche punto di contatto con Lucio Parrillo, che invece ho portato io a Carrara lo scorso fine settimana, no, due fine settimana fa, il tempo passa troppo in fretta, autore toscano che fa le copertine per Red Sonja e Vampirella. E 15:28, quindi tocca annunciare una nuova canzone. L'altra l'ha annunciata Daniela, annunci tu Antonio? C'è una lista, è sparita, la bruciamo, perché la seconda canzone dovrebbe essere Neffa con Aspettando il Sole. Sempre sono solo nuvolette, sempre sull'onda di quella nostalgia un po' canaglia, citrulla, cialtrona. Trovate, crocettate l'aggettivo a scelta che un po' alimenta ciò che è la cultura pop del presente. Daniele e Antonio di Guru Guru Fumetteria saranno a Villa Franca di Verona alla Saga del Fumetto questo fine settimana. Eh sì. Per incontrare in particolare un certo personaggio che Daniela non vede l'ora di incontrare. Juan. Dillo di nuovo. Con più enfasi ancora. Ci sarà Juan. Per chi non appartiene a questa generazione, non è stato traumatizzato da quel tipo di trasmissione, parliamo di Juan di Bim Bum Bam. Quindi, il cane rosa. Il cane rosa, esatto. Era un cane? Forse. Qualcosa. Era un cane? Qualcosa. Può essere che fosse un cane. Era dopo tutti questi anni di ritiro dalle scene, era alcolizzato in una villa di Beverly Hills come nei film? Penso che abbia fatto un po' di rehab, però non si sa. Non si sa, non lo dicono. Secondo me Davide La Rosa ha già una teoria al riguardo. Davide La Rosa, sceneggiatore di Suore Ninja, è stato vostro ospite? Sì, diverse volte. Ok. Davide, su queste prese in giro della cultura pop mescolate con la cultura alta, ci sguazza. Ricordo anche un'altra buffa battuta sua, che i filosofi non sono altro che nerd di altre categorie. Quindi voi vi fiate quante siete ogni weekend? Due settimane fa ci siamo trovati a Carrara, la settimana scorsa eravate qua a Torino in Piazza Madama Cristina, settimana prossima a Villafranca di Verona. Ma non vi fermate mai? Ogni tanto ci fermiamo. Ogni tanto? Ogni tanto. Avete un TARDIS? No, però lo vorrei. Magari. Sarebbe una bella innovazione. Anche perché il tempo è sempre limitato. Noi cerchiamo di risparmiarne il più possibile per poter correre da una parte all'altra, perché ci piace comunque presenziare anche gli eventi. Ok. Però vabbè, la stanchezza c'è, come dicevo prima. I chilometri anche. Anche i chilometri. Cos'è che rende interessante per una fumetteria partecipare a una fiera? È una fiera. Sì, sì, il contatto, incontri tanti amici, perché magari incontri colleghi da altre parti d'Italia con cui magari c'è qualche rapporto anche online, o ti vedi di persona, ti bevi una birra. Ma non sto dicendo fare una fiera, ma fare una fiera alla settimana, che è sovrumano. Ah, fare diciamo che è un sacrificio che facciamo molto volentieri. Beh, conoscendo tanti autori in giro per l'Italia, più vicina, diciamo più vicina, che devi andare per forza di cose dove sono, quindi tante fiere, tanti autori, tanti amici. Ah, okay. Ok, quindi stai estrapolando un discorso di marketing sottotesto. Sì, sottile. Sottile, vabbè. Visto che mi sembra che qui si campi, nel vostro caso campiate, viviate con la fumetteria, mi pare giusto fare i conti. Sì. Purtroppo in questo ambiente, mettiamo in senso lato, in senso artistico, situazioni in cui non facevano bene i conti sono crollate miseramente. Non faccio riferimenti, solo chi conosce la mia storia personale può pensare a chi mi sto riferendo, quindi non andiamo oltre. Si dice il peccato non il peccatore. La professionalizzazione dell'ambiente quanto è importante secondo voi? Tantissimo. E ho fatto la sparata, però in realtà io so cosa intendo, voi sapete cosa intendo, perché vi ho attaccato bottone mezz'ora a Carrara. Cos'è che secondo voi può distinguere davvero una fumetteria che ci mette il piglio giusto da una che non ha capito e magari chiuderà? Perché il problema è quello. Ma ci sono tante variabili, non me la sento di dare una formula specifica, anche perché anche noi abbiamo i nostri problemi quotidiani, quindi diciamo che la regola magica non c'è, ci vogliono una concomitanza di fattori, essere realistici, sì, prima di tutto. Ok. Poi il taglio che uno dà proprio alla propria comunicazione, abbiamo un taglio molto, molto vivace, anche perché ci rivolgiamo schiettamente alle persone, così come le vedi, come le trattiamo ogni giorno, come siamo noi stessi come persone, ci rivolgiamo poi alla nostra clientela, le persone che ci seguono. Quindi nobody knows anything, come dicono di Hollywood, che è la regola aurea, per sì, cui in realtà non riescono mai a capire quale sarà il film successivo che funzionerà, perché nessuno sa niente. Poi specialmente in questo momento storico dove si tenta di tutto per poter sbarcare lunario, uno cerca di fare un po' d'avanguardia, andare avanti, vedere come andrà. Principalmente non bisogna mai smettere di credere nei propri sogni. Wow. Portare avanti sempre la baracca con fatica, sì, sì, con sudore, e come ti dicevo prima, essere realistici. È anche per questo che siamo comunque 7 giorni su 7, non so quante ore al giorno a lavoro, e a casa. E ci siamo anche spostati vicino al negozio ad abitare per essere più vicini e più presenti e non perdere ulteriore tempo. È una missione anche, come i Blues Brothers. Esatto. In missione per conto di CEO, però non solo per lui. Non solo lui, per carità. Diciamo per il fumetto in generale. Per il dai. Fumetto in generale. Sì. Fantastico. Cultura e fumetto. Cultura e fumetto. Ma al di là della cultura nerd, c'è qualcosa che... Oppure è tutto cultura nerd? C'è qualcos'altro che vi appassiona, oppure oramai pensate che il nerd sia il nuovo mainstream come letture? Diciamo... C'è altri ambiti in cui magari espandereste che esporreste e che potreste intercettare nella fumetteria? Oddio, noi facciamo già le cose talmente a 360 gradi che mi viene un po' complicato. Ok, le padelle no. Le padelle no, sinceramente. Quello no, sicuramente. Non lo so, boh. Beh, di per sé, comunque, una battaglia che personalmente in passato ho cercato di portare avanti sulle fiere del fumetto e che alcuni lo stanno capendo, che la narrativa di genere ci sta benissimo nelle fiere del fumetto. Quindi voi avete la narrativa di Dottor Who, penso abbiate anche narrativa fantasy. Sì, qualcosina sì. fantasy o romanzi, racconti legati ai videogiochi. Poi adesso sta nascendo anche qua in Italia, hanno portato le light novel o ispirate ai manga o i manga tratti da, poi le light novel vengono pubblicate, con lo stesso Somnia hanno tirato fuori una light novel, ne stanno preparando sicuramente. Qui ci vorrebbe il mio maestro Jedi in giapponesità, che è Massimo Sumare. Ma le light novel sono tecnicamente romanzi illustrati, poi diciamo, o qualcosa, di sì, in una estrema semplificazione, diciamo di sì, che vengono dal mercato manga, quindi con determinate caratteristiche. Ma le stanno importando, traducendo, oppure ne stanno addirittura facendo? Il caso di Somnia è comunque, sì, un'autrice Somnia italiana. È... Somnia è tutto italiano, quindi esatto, prodotto completamente, sì, italiano. Sì, sì, sì. La sceneggiatrice ha scritto questo romanzo, La notte dei desideri, e un esperimento riuscito. Beh, io poi parlo della nostra esperienza, comunque siccome penso che da noi si uniscano gran parte degli appassionati di Somnia. Siamo stati ribattezzati Somnia Point. Ok. In via informale. Ma questa è un'altra novità del mondo così come è cambiato, che probabilmente saper intercettare esattamente i propri clienti è una delle chiavi, può fare la differenza tra essere sul mercato oppure no. Direi proprio di sì. Daniela, il prossimo pezzo. Allora, il prossimo pezzo è dei Cardigans ed è Erase and Rewind. Sono solo nuvolette, torna in onda per il quarto e ultimo atto. Ci diamo un'importanza dopo... vabbè, niente. Ho finito i neuroni. Uno parte, si lancia e poi non ce la fa. Non ce la faccio. E sono solo nuvolette, ultimo atto, ultimo quarto della trasmissione con Daniela e Antonio di I Gurguri, mi sono anche impantanato. E voi sarete a Villa Franca di Verona per la saga del fumetto. E abbiamo appurato che chilometri ne fate tanti. Sì. Ma tanti. Ci sono, avrete anche, immagino, perché secondo me una delle chiavi è anche fare un po' comunità. Ci sono vostri utenti fedeli che nel tempo sono diventati anche vostri amici? Christian. Tantissimi, sì. Uno fra tutti che verrà con noi, tra le altre cose, in fiera. Ah, ok. Vedi, proselitismo per passione comune. Sì, sì, ma noi ci teniamo tanto comunque alla community, anche perché proprio per quanto riguarda i social... No, vabbè, adesso non vorrei io togliere poesia a tutto quanto, perché la riduciamo un po' a un discorso di mercato. No, assolutamente. No, è proprio una cosa perché ci piace fare social, infatti. Perché ci piace stare con la gente, divertirci. Esatto. Cioè, non a serrande abbassate avremmo fatto tante di quelle feste in negozio che la metà basta. Non si possono dire queste cose. Vabbè, serrande abbassate, quindi. Avremmo, poi col condizionale salvi qualsiasi cosa. Quindi avreste, quindi niente. Io nego tutto. Esatto. Credo che comunque sia importante la doppia valenza. È un ambiente tra virgolette piccolo, quello del fumetto e della cultura pop, che sta crescendo di esposizione mediatica, e quindi sia importante l'una e l'altra cosa, e i due volti, quanto poi la componente umana si resti indispensabile. Mi pare di ricordare un aneddoto di Fabrizio De André, che era andato a prendere con la macchina un critico musicale a Genova tra i Carrugi. Cioè, abbiamo un po' troppo tanti artisti del Novecento, artisti quindi includendo anche i cantautori, gli intellettuali, ne abbiamo un po' questa immagine mitizzata, quanto in realtà forse non sarebbero stati quelli che erano senza la comunità intorno. Quindi la comunità oggi è reale e virtuale. Sì. E spesso le due cose si incrociano, anche perché noi operiamo principalmente sul locale, quindi siamo stretto contatto, abbiamo una cerchia di amici che comunque ci danno una grande mano, a cui siamo veramente grati, perché altrimenti saremmo persi. Saremmo persi. Ma tra l'altro in questo momento io vi ho chiesto di partecipare alla trasmissione senza farmi la domanda che avreste dovuto stare in fumetteria. In questo momento c'è un'altra persona in fumetteria, sì, che sì, volete, sì, salutare? Sì, sì, c'è il nostro socio. Ah, ok. Ciao, Domenico. immaginavo, perché poi adesso... Mi sarei preoccupato di avervi fatto chiudere la fumetteria per venire in radio. Ok, è una bellissima trasmissione, grazie, però mi sarei preoccupato in quel caso lì. No, non è una bellissima trasmissione, si fa quel che si può. No, ma è divertente perché ci sono tanti argomenti di cui parlare. Io vorrei evitare di spingermi troppo sul mercato, perché purtroppo adesso oramai sono diventato incidentalmente una persona che si interessa di queste cose qua. Però la passione per la cultura pop, per queste cose, è ciò che ci ha portati tutti qua. Esatto. E, Daniela, riesce ancora a leggere fumetti senza pensare a quanto potresti venderli nella fumetteria? Sì, assolutamente. Ok. È una risposta di comodo? No, anch'io. Ok, okay. Siete riusciti a tutelare, è molto bello riuscire a tutelare, ma si riesce, adesso questa è una battuta, riuscire a tutelare la passione anche all'interno della professione penso che sia importante. Lo faccio perché mi piace. Ok. Ho fatto di quello che mi piace il mio lavoro, penso di essere una delle persone più fortunate al mondo. Beh, bene, credo che come approccio alle cose dover fare tanti chilometri, però... Si fanno. Altre, ma la stagione delle fiere è quasi finita, avete altro in programma dopo Villa Franca di Verona? Si va avanti fino ai primi di agosto. Sì. Alla faccia, ok. Ne stiamo programmando altro. Quindi, prossimo calendario, che poi dovrò andare veloce nel caricare il podcast, se no diventa datato. Se non mi ricordo male, dovrebbe essere Imola. Imola? Sì, a Imola, la fiera del fantasy. Prima edizione. Stanno sbucando fiere da tutte le parti, o questa sbaglio? Questa è molto bella perché ci sarà anche la Nintendo, tra le altre cose, e la Lego. Alla faccia, anche lì parliamo di marchi che sono la nostra infanzia e che se li hanno gestiti bene sono macchine da soldi. Esatto. Indicativamente. C'è un bellissimo libro uscito per multiplayer che sto leggendo, che è Console Wars, che è la storia della guerra tra Sega e Nintendo. Epica. Che erano cose che a me erano sfuggite. Voi eravate da parte di Sega o di Nintendo? Io Nintendo, ho avuto entrambi, però sono un Nintendo fan da sempre. Io ero una bambina povera, non li avevo. Anch'io ero un bambino povero, avevo Nintendo, il NES e mi sono fermato a quello e basta. Io ho avuto l'Amiga 500, basta. E beh, quello era già, i computer erano già, uno si dava già importanza. Ricordo mio cuginetto da bambino che si era comprato, lui si era comprato il PC1 perché lui, e non il Nintendo, perché lui in realtà voleva usarlo per studiare. Sì, sì, poi sì, ci sì. Caricava i giochi piratati, però sì. Ci avrebbe caricato, com'era la cosa del condizionale? Ci avrebbe forse in un altro universo alternativo. Ma poi tanto ho detto il peccato, ma non il peccatore, esatto. Quindi ho una famiglia grande, quindi non è che si possa risalire. Altre cose interessanti, sicuramente possiamo cominciare a dare un po' di coordinate spazio-temporali su cui trovarvi, anche se in realtà chi vi ascolta probabilmente è già arrivato a voi tramite i social network, però se per caso qualcuno sentisse la trasmissione e non vi conoscesse, dove Facebook, Fumetteria Guruguru? Sì, esatto, siamo Guruguru Fumetteria su Facebook, diciamo che abbiamo lo stesso username un po' dappertutto, su Twitter ci trovate con @GuruguruShop, su Instagram idem, su Foursquare idem, siamo praticamente su quasi tutti i social network, cerchiamo di usarli tutti più o meno attivamente, ovviamente dove arrivano i limiti dell'umano. Ma anche Google Plus? Google Plus è solo che dovrei dedicarle più tempo. Cioè, abbiamo. Vabbè, ci siete. Sì, sì, ci siamo, però è come ogni tanto posto qualcosa. Abbiamo i nostri preferiti per forza, quindi. Vabbè, quello è inevitabile, poi è una scelta anche di frequentazione. Anche i social network sono come i fumetti, gli autori di fumetti hanno i loro seguaci preferiti, come anche nella battaglia di tra Sega e Nintendo, c'erano le due varianti. E blog, c'è un blog della fumetteria? Lo avevamo un tempo, poi ovviamente abbiamo lasciato morire il progetto, ma più che altro per una questione proprio di tempistiche. Era un'altra cosa da seguire, quindi abbiamo deciso di focalizzare tutti i nostri sforzi sui social network, appunto. Però il ritorno non è tanto scontato, cioè, non ci stiamo lavorando. Non si esclude il ritorno. Cookie Law a parte, però è anche questa cosa qui da considerare. E altre idee di presenza su web? Non vi è venuto in mente qualcos'altro? Hai scritto qualcosa di Periscope? Ah sì, su Periscope l'abbiamo forse provato dagli inizi, sono stati una settimana. Posso chiedere di spiegare a uno che ha un social network manager che posta per lui su Twitter, che si chiama Eddie Pedro, e quindi è antisocial, sia possibile essere antisocial nel 2015? Che cos'è Periscope? Periscope è un social network in cui si trasmettono live istantanee. A differenza di YouTube, uno ha la possibilità di comunicare però live istantanee. Esatto, istantanee, quindi comunicare direttamente in tempo reale con chi gira il video, quindi dargli anche consiglio, dargli un feedback in tempo reale. Ok, l'ulteriore step, sì, l'audio video istantaneo. Esatto. Servirà una banda sempre più grande, un giorno o l'altro i cavi che corrono sotto l'oceano speriamo che stiano sempre bene in salute. E direi che riusciamo stranamente a stare nei tempi, quindi siete stati molto diligenti, è stato molto piacere avervi qui con me a Sono Solo Nuvolette. Visto che avete molti fan su molti fan, molto seguito su Facebook, sui social network, sono io che faccio la marchetta, per favore fan, amici di Guru Guru Fumetteria, cliccate mi piace anche su Solo Solo Nuvolette, che io essendo antisocial sono ancora a quota un po' bassa. Fatelo. Mi raccomando. Cliccate mi piace, abbiamo già messo il link negli ultimi post e lo faremo ancora perché... Grazie. E grazie a Daniela e Antonio per essere stati qui. Con voi l'appuntamento è a Villa Franca di Verona, oppure penso tra qualche... appena fisicamente riuscite a spostarvi in via Palazzo di Città? Sì, sì, una mezz'oretta dovremmo arrivare. Non c'è il TARDIS qui fuori, quindi... Purtroppo no. Abbiamo una punta. Dite così, in realtà c'è il TARDIS qui fuori, però... Non si possono dire certe cose, perché poi chiamiamo il dottore in diretta, succedono quelle cose lì, le hanno già fatte, poi basta. Abbiamo il TARDIS funzionante. Ma poi dopo che è andato via Russell T. Davis, basta. Gianluca Morozzi alla diretta dal Salone Internazionale del Libro mi ha detto che a lui piace anche il dottor Woody Moffat. A me piace un po' di meno, sì, alla fine mi piace... Ma perché adesso finisco di parlare? Vabbè, niente. Uno fa finta di essere, parla di mercato, delle cose interessanti, eccetera, e poi sbraca nel... Siamo tutti fan. Allora, 10, 11 o 12? Daniela? 11. Ok. Non ho un dottore preferito, la vedo più come proprio una reincarnazione. Il 12 mi piace comunque tanto come attore. Mi piace molto anche a me. Il modello di... sta facendo Capaldi e... mi piace quel tipo di piglio. Notare che io invece cerco sempre di, quando vado sul troppo nerd, cerco di spiegare. Ho appena fatto una domanda che chiunque altro ha detto: ma perché danno i numeri in inglese in questo momento? Perché ho solo chiesto ai miei ospiti chi preferiscono tra le incarnazioni di Dottor Who, che questa serie televisiva che ha passato i 50 anni, ne abbiamo parlato anche con Manfredi Toraldo la settimana scorsa, due settimane fa, perché abbiamo saltato il 2 di giugno, e con Manfredi avevamo scommesso quanto tempo ci avremmo messo prima di parlare di Dottor Who. E non è durato tanto. E qui siamo arrivati, ne avevamo già parlato prima. Chiudiamo la puntata di Sono Solo Nuvolette. È stato molto piacere avervi qui con me, Daniela e Antonio. Grazie. Guri. Grazie a voi. E cliccate mi piace su Sono Solo Nuvolette. Grazie a Filippo lì dietro in regia. E cliccate mi piace anche su Radio Archimede, su Biblioteca Civica Archimede. Cliccate su quello che volete, anche su Guru Guru. Se per caso ci fosse un mio ascoltatore che non conosce Guru Guru Fumetteria, cliccate mi piace. Cliccate mi piace anche su Surrealet e tutte le altre fumetterie di Torino, perché adesso non è che dobbiamo bisogna supportare supportate il fumetto, fumetteria. Supportate il comparto, viva le nuvolette, e non si può fermare il segnale, come diceva Joss Whedon, come ci ha insegnato Joss Whedon in Firefly. Ciao a tutti, alla prossima settimana.